Sono, per chi ci sta ascoltando in diretta, le 21:48, tardissimo, lo so, perdonatemi, ma d'altra parte partecipare a un corteo e poi venire qua di corsa non è stato facile. Però sì, sono le 21:48 dell'8 marzo, come appunto chi ci segue in diretta sa. E 8 marzo di cortei, scioperi e mobilitazioni di vario tipo un po' in tutto il paese e quindi anche Slick Chick versa il suo tributo a questa giornata, ma non fate gli ingenuotti, il tema di questa puntata non sarà la donna, la donna, la donna. Neanche l'uomo, anzi neanche l'uomo, ma lo sciopero. Sì, ebbene sì, il nostro tributo di stasera sarà un tributo allo sciopero e vi racconteremo, anzi ci faremo raccontare dai protagonisti che di scioperi ne hanno fatti un bel po', appunto di cosa si tratta, perché si sciopera, come si sciopera e cosa ne nasce da uno sciopero? Iniziamo subito, visto che siamo in ritardo e non c'è altro tempo da perdere, con una di queste protagoniste che ben sanno appunto che cos'è uno sciopero e che cosa soprattutto porta con sé. Sto parlando di Sarah Hogan Gunning, nome che probabilmente vi giungerà abbastanza nuovo perché non è proprio una star della musica, diciamo, come peraltro gran parte delle voci che vi farò sentire stasera. Sarah Hogan Gunning, questo è un pezzo del 1937, quindi insomma ambientate già in quell'epoca la musica che stiamo per ascoltare. In realtà si chiamava Sarah Garland Gunning. E vabbè, e dopo cambiò nome in Sarah Hogan Gunning. Era la decima di 11 figli di una famiglia di minatori del Kentucky. Nell'epoca in cui si parla appunto dei primi anni 30, la prima metà del Novecento, e nell'epoca in cui un minatore veniva pagato meno di $1,50 al giorno per circa 10 ore di lavoro in durissime condizioni. Il padre di Sara era entrato nelle liste nere dei lavoratori perché protestava per ottenere migliori condizioni di vita. Insomma, quando si parlava di migliori condizioni di vita, si parlava della decenza e della sopravvivenza. Sara Garland e sua sorella, che si chiamava Molly Garland, appunto, in seguito conosciuta come Aunt Molly Jackson, che sentiremo dopo, verso la fine, scrissero e cantarono molte, molte canzoni in supporto a questa lotta, appunto alla lotta dei minatori. Questa qua era una di quelle che ci andiamo adesso a ascoltare e si chiama I'm Going to Organize Baby Mine, è appunto Sarah Hogan Gunning. Oh, you're going to be surprised, baby man. Oh, you're going to be surprised, baby man. Oh, you're going to be surprised, for I'm going to organize. Yes, I'm going around this world, baby man. Oh, I'm going to write you a letter, baby man. Oh, I'm going to write you a letter, baby man. Oh, I'm gonna write you a letter when the living gets better, but I'm gonna organize, baby man. See the workers chillin' and wise, baby man. See the workers chillin' and wise, baby man. See the workers chillin' and wise, I'm compelled to save their lives, so I'm going to organize, baby man. Oh, I love the union men, baby man. Oh, I love the union men, baby man. Oh, I love the union men. The way they're treated is a sin. So I'm gonna get organized, baby man. Thank you. Questo invece era Strike Anywhere, cioè il gruppo si chiamava Strike Anywhere e il pezzo invece si intitolava You're Fired, molto esplicativo direi sia il titolo del pezzo sia il nome del gruppo. L'album era Changes of Sound del 2001 e gli Strike Anywhere sono una band di Richmond in Virginia formata nel 1999, una band decisamente più recente dei tempi con cui invece vi ho iniziato e tratta temi quali gli abusi della polizia, anticapitalismo, i diritti degli animali e delle donne, la globalizzazione, insomma diciamo uno di quei gruppi politicizzati all'americana. Hanno contribuito peraltro a compilation come Rock Against Bush, il volume 1, perché poi ce ne sono state anche altre, e un'altra compilation che si intitola 157 Ware Avenue, A Memorial for Hamadou Diallo, e che è un disco sull'episodio appunto che riguarda Hamadou Diallo. Hamadou Bailo Diallo, spero di avere una pronuncia decente ma è un po' difficile, era uno studente liberiano residente a New York per studiare, che fu ucciso all'età di 23 anni da 4 poliziotti dell'unità crimini stradali in circostanze che in maniera meravigliosa Wikipedia definisce controverse, ma che in realtà sono piuttosto lampanti. Ecco, i poliziotti lo fermano in strada per un controllo, lui dice mette le mani in tasca, loro dice pensarono che stesse prendendo un'arma e gli sparano, ecco, gli sparano non una volta ma 41 volte colpendolo per 19, ecco, e questa è la storia di una delle tante che a cui l'America e non solo l'America ci ha abituato, questa in particolare però era la storia di Hamadou Bailo Diallo. Proseguendo però con la nostra scaletta per non andare troppo fuori tema, anche se insomma non lo eravamo poi tanto, proseguiamo nella nostra scaletta degli scioperi con Ewan McCall in un pezzo che si intitola Daddy, What Did You Do in the Strike del 1984 ed è un brano composto per lo sciopero dei minatori britannici che vi ricorderete avvenne tra il marzo dell'84 appunto e il febbraio dell'85. Fu registrato questo pezzo su una cassetta autoprodotta insieme al sindacato dei minatori e diffusa un po' ovunque tra i lavoratori e non solo. Lo sciopero, dicevamo, dei minatori inizia nel 1984 dopo l'annuncio di Margaret Thatcher, della sempre rimpiantissima Margaret Thatcher, della chiusura di 21 siti estrattivi di carbone e la relativa perdita di qualcosa come 20.000 posti di lavoro. Attenzione però, perché non si trattava certo di una scelta ambientalista, d'altronde, insomma, eravamo nell'84 e la Thatcher aveva ben poco di ambientalista. Il governo voleva chiudere vecchi siti estrattivi per aprire altri super pozzi, così venivano definiti, che poi avrebbero venduto in seguito all'industria petrolifera. E per investire tutto e fare una sorta di virata economica verso l'energia nucleare. Quindi, insomma, bel piano. Lo sciopero durissimo regge 51 settimane, poco meno di un anno, e coinvolge 165 minatori in tutta la Gran Bretagna e riceve una solidarietà attiva, in realtà in tutto il mondo. La Thatcher, messa a dura prova dalla sospensione dell'attività estrattiva in tutto il paese, lo ricorderete, insomma, gli inglesi se lo ricordano molto bene, scende in guerra. Manda la polizia davanti alle miniere, iniziano scontri pesantissimi, ma alla Thatcher non basta questa banale metodologia, seppur violenta, e insomma, che aveva anche cioè che funzionava anche, ma a lei non gli bastava e va a colpire i conti in banca delle organizzazioni sindacali, congela tutti i fondi. Come sapete, questo tipo di scioperi funziona se i lavoratori possono contare sul mutuo appoggio, anche economico. Così facendo, la Thatcher essenzialmente riduce letteralmente la fame ai minatori, che riescono a sopravvivere per un intero anno solo grazie ai benefit e agli aiuti, anche alimentari, mandati da tutto il mondo. Sentivo un'intervista che a uno dei protagonisti di quella lotta, che anche dall'Italia arrivarono un bel po' di aiuti sotto forma di pacchi di pasta, e noi quelli abbiamo, che peraltro, insomma, nel 1984 nei paesi più dispersi del profondo Galles, ad esempio, la pasta non si era mai vista e manco sapevano come cucinarla. Però in ogni caso apprezzarono moltissimo l'aiuto e la solidarietà dall'Italia, ma insomma da tutto il mondo, ovviamente. Dopo due morti, 710 licenziamenti e 10.000 procedimenti giudiziari, i minatori purtroppo cedono e votano per la fine dello sciopero nel febbraio appunto del 1985. Le ripercussioni di questa lotta, dei suoi fallimenti, ma in realtà anche delle sue vittorie e delle cose che ha portato con sé, saranno vastissime in tutta l'Inghilterra. Questa è solo una delle tracce lasciate da quel periodo infausto, eppure in qualche modo importantissimo. Daddy, what did you do in the strike, the Evan McCall? We're the people who made the policy, and miners have confirmed time and time again. They've told their leadership, no pit closures, no loss of jobs, protection of our communities. And that is the message that Arthur Scargill brings, and he has the solid backing of those miners that's out on strike. It was in the year of 84, shit really hit the fan. When Mac the Knife McGregor, Maggie Thatcher's hatchet man, said another 20 pits will have to close to meet the plan, and we'll dump another 20,000 miners. Daddy, were you with the first on the first? Did you tell the NCB to do its worst? Or did you save your lily liver, sell the union down the river? A scab, a blackleg, one forever cursed. When Arthur Scargill heard the news, he cried, "This Yankee slob is a gift from Cowboy Reagan and is here to steal our jobs. Do an axe job on the union for the crummy Thatcher mob, but we'll show him what it means to be a miner." Daddy, did you man the picket line? Did you fight to save the future of the mines? Or did you take the wrong direction? Did you squeal for police protection? Did you let him see your india rubber spine? Well, the Yorkshire lads came out on strike and said it's evident The only way to stop McGregor and the government is to bring the lads out everywhere from Scotland down to Kent, and we'll show them what it means to be a miner. Daddy, what did you do in the strike? Did you stand there with your mates and join the fight? Or did you show a yellow belly, spill your guts out on the telly? Did you let the bosses fill you full of shite? Some didn't heed the strike call, for guts and brains they lack. They're the colour of a primrose, though their hearts and legs are black. And their noses are all brown with being up the rear of Mac. They're just a bunch of dirty black like miners. Daddy, did you march at the head? Did you stand there on the picket line unfed? Or did you sell your mates to have a fortnight on the Costa Brava? Did you choose a two-week holiday instead? Well, the battle, it is joined at last, the forces they amassed. On their side, the press, the telly, all the weapons of their class, plus McGregor and his blacklegs, but we'll never let them pass. The NUM's the weapon of the miners. Daddy, what did you do in the strike? Did you stab and let your workmates wage the fight? How the neighbors stood and booed us, said we had the stink of Judas. Daddy, what did you do in the strike? We didn't want to strike. Nobody likes to strike. But we were left in a position with no alternative because of the situation we were placed in. We've been threatened for a long time as an industry, by the present government especially. And we felt that if this one had been allowed to slip, the whole of the industry would have been decimated. And so we've got to lead this fight and we've got to win it. The strike will go on till we win. Thank you. grocery store. I'll watch my children starve no more tonight. I'm gonna feed them. Haven't worked in 40 days. For 23, I've had no pay. In a week, I'll have no place to stay. An Arab will have to kill me. An Arab will have to kill me. Questo invece era Greg McPherson con un brano che si intitola Company Store, a ricordarci che insomma non importa scomodare necessariamente i minatori gallesi per sapere qualcosa dello sfruttamento sul lavoro. Ecco, sì, ci sono altrettante storie molto più vicine a noi. Greg McPherson è un personaggio che in realtà io l'ho ascoltato, non mi piace tantissimo le altre cose che ha fatto, ma questo pezzo lo trovo molto bello, e purtroppo se ne trova soltanto versioni live, quindi non vi posso neanche consigliare album o altro, ma insomma lo trovate. Invece, proseguendo sempre, tornando a parlare degli appunto i minatori famosi britannici dell'84, c'è un'altra parte che non viene quasi mai raccontata dietro a quello sciopero, che è la storia narrata da In Pride, film del 2014 diretto da Matthew Warchus, che boh, è un film che vi consiglio veramente moltissimo se non l'avete visto, perché racconta Una storia vera, bellissima e per una volta non deprimente, cosa assolutamente da non sottovalutare. L'allora piccola e super discriminata comunità queer di Londra, insomma non immaginatevi la Londra di adesso ovviamente, ma la Londra del 1984, che per la comunità LGBT e queer insomma non era proprio la stessa cosa di ora. Questa comunità inizia a raccogliere fondi per sostenere i minatori in lotta, arrivando in un piccolo paesino del Galles, e ne nasce un rapporto inizialmente difficile e poi saldamente solidale. Insomma, immaginatevi un carrozzone di gay e lesbiche nel Galles degli anni Ottanta, minatori perplessi, mogli curiose, insomma, nella solidarietà e nella profonda comprensione reciproca ci si ritrova con qualcosa che si protrae ben oltre lo sciopero e cambia le vite e soprattutto le teste di molti. Questa che vi faccio sentire adesso è Bread and Roses, direi famosissima Bread and Roses, nella versione però non di John Baez o di Judy Collins, che insomma l'hanno resa celebre, ma la versione di Browning Lewis, che tra l'altro è una gallese anche lei, insomma sa di cosa parla, perché è la versione appunto trovata nel film Pride, e peraltro se ne sente in questo pezzo anche un primo intro proprio del film, e quindi sentitevela, ma mi raccomando, se non avete ancora visto Pride, correte a scaricarvelo, guardarvelo. Listen to me, everyone. I just want to say something. Get your feet off those seats. We've let you down. No, we have. We haven't collected enough. We haven't raised enough awareness. We know that. No, it's not enough to always be defending. Sometimes you have to attack to push forward. And that's exactly what we're going to do. When we get back to London, and you have my word on this, we are going to do something so spectacular. That would be so incredible, so effective that the National Coal Board, I promise you this, will come crawling on their hands and knees in full drag to beg you for forgiveness. Now, victory! Victory to the miners! In the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill of scray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people here are singing bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men, for they are women's children, and we love them again. Our lives shall not be sweated from birth until life closes. Our stomach as well as bodies, give us breath, but give us roses. Came running They came running everywhere. They broke up miners' meeting and carried every on the jail. But the miners kept on singing, and they sang the whole night through. When the sun rose in the morning, I had learned that minor song. Now the judge, he asked the police captain, what's that red cat doing here? Get all the reds off the streets, sir. Was your orders loud and clear? Now they turn me out of the jailhouse back door, but I wouldn't leave my minor friends. I jump back to that jailhouse window, and I sing that minor songs again. You minors stand together, heed no operator's tale. Keep your hands up on the dollar and your eye up on the scale. Infatti c'è un sacco di blues in questa scaletta, però d'altra parte quando si parla di minatori, condizioni di lavoro terrificanti, e scioperi e lotte, il blues probabilmente è uno dei generi musicali più indicati, ecco, per raccontare queste cose. E questo che avete appena sentito era Ry Cooder con Strike, dall'album My Name is Buddy del 2007, sì, un blues ma non troppo antico. E invece adesso torniamo parecchio indietro, perché il prossimo brano che vi faccio sentire è una rarità, è Dressmaker's Victory Song di Emily B. Fine, originariamente scritto da Emily B. Fine, ed è un brano del 1936. Viene distribuito infatti appunto in quello stesso anno dall'Education Department of the International Ladies Garment Workers Union, ovvero il sindacato del settore tessile, ecco, per capirsi, fondato nel 1900, tondo, di cui facevano parte essenzialmente solo donne, anche perché insomma in quel settore lavoravano in gran parte donne. Il sindacato incise due dischi di canti di lavoro e lotta, eseguiti dall'International Chorus, che era un coro interno al sindacato buffamente tutto di uomini. Questo pezzo fu insomma la prima registrazione di una canzone sul lavoro, che parlava del lavoro, negli Stati Uniti. E ne esistono solo due copie oggi. Una è conservata alla Music Division of the Library of Congress, insomma al Congresso, e l'altra è alla New York Public Library. E per fortuna qualcuno ne ha digitalizzata una copia e buttata su YouTube, per cui posso farvela ascoltare. Victory Song of the Dressmakers. We'll now sing the Dressmakers' Victory Song. Work was very weary, life was sad and dreary, just a little while. while ago. But in massive numbers grown, we from our slumbers and for freedom's struck a blow. Forward, forward, the Union challenge rings. Forward, forward, the dressmaker sings. Evermore uniting many thousands fighting, march we on to victory. Like an ocean roaring from the sweatshop pouring, dressmakers are massing strong. Cutters, operators, pressers, sample makers, all craft join the mighty throng. Forward, forward, the Union challenge rings. Forward, forward, the dressmaker sings. Evermore uniting many thousands fighting, march we on to victory. Union recognition, short hours in addition, fire, everyone for all. Gun our barn shall sever, Union live forever, all for one and one for all. Forward, forward, the Union challenge rings. Forward, forward, the dressmaker sings. Evermore uniting many thousands fighting, march we on to victory. Eccola, questa era Dressmaker's Victory Song, ma per riprenderci un po' ci ascoltiamo ora Peggy Seeger, che è una cantante americana folk piuttosto nota, che ha scritto per un bel po' di decenni, e il pezzo si intitola I'm Gonna Be an Engineer, e il testo è molto molto divertente. Tra le varie cose dice una cosa tipo: mia madre mi disse non puoi essere una signorina, il tuo dovere è rendermi madre di una perla, aspetta quando sarai vecchia cara e magari allora sarai felice di essere una donna. E invece no, la testarda Peggy Seeger voleva essere un ingegnere, e quindi questo brano del 1970 non è propriamente su uno sciopero di picchetti e quant'altro, ma in certo senso è comunque uno sciopero dalla propria condizione in cui si è stati cuciti, cioè il proprio ruolo cucito addosso, e quindi insomma di fatto è un po' qualcosa che c'entra con il senso di tutta la giornata di oggi, dell'8 marzo del 2017. E quindi I'm Gonna Be an Engineer, Peggy Seeger. When I was a little girl, I wished I was a boy. I tagged along behind the gang and wore my corduroys. Everybody said I only did it to annoy, but I was gonna be an engineer. Mama told me, can't you be a lady? Your duty is to make me the mother of a pearl. Wait until you're older, dear, and maybe you'll be glad that you're a girl. Dainty as a Dresden statue, gentle as a Jersey cow, smooth as silk, gives creamy milk. Learn to coo, learn to moo, that's what you do to be a lady now. When I went to school, I learned to write and how to read, some history, geography, and home economy. And typing is a skill that every girl is sure to need, to while away the extra time until the time to breed. And then they had the nerve to say, what would you like to be? I says, I'm gonna be an engineer. No, you only need to learn to be a lady. The duty isn't yours for to try and run the world. An engineer could never have a baby. Remember, dear, that you're a girl. So I become a typist and a study on the sly, working out the day and night so I could qualify. And every time the boss come in, he pinched me on the thigh, says, I've never had an engineer. You owe it to the job to be a lady. It's the duty of the staff for to give the boss a whirl. The wages that you get are crummy, maybe, but it's all you get 'cause you're a girl. She's smart for a woman. I wonder how she got that way. You get no choice, you get no voice. Just stay mum, pretend you're dumb. That's how you come to be a lady today. Then Jimmy come along and we set up a conjugation. We were busy every night with love and recreation. I spent the day at work so he could get his education, and now he's an engineer. He says, I know you'll always be a lady. It's the duty of my darling to love me all her life. I couldn't engineer, look after or obey me. Remember, dear, that you're my wife. Well, as soon as Jimmy got a job, I began again. Then happy at me turret lay the year or so. And then the morning that the twins were born, Jimmy says to them, kids, your mother was an engineer. You owe it to the kids to be a lady. Dainty as a dish rag, faithful as a chow. Stay at home, you got to mind the baby. Remember, you're a mother now. Well, every time I turn around, there's something else to do. It's cook a meal or mend a sock or sweep a floor or two. I listen in to Jimmy Young, it makes me want to spew. I was gonna be an engineer. Now I really wish that I could be a lady. I could do the lovely things that a lady's supposed to do. I wouldn't even mind if only they would pay me. And I could be a person too. What price for a woman? You can buy her for a ring of gold. To love and obey without any pay, you get a cook and a nurse, for better or worse. No, you don't need a purse when a lady is sold. But now that times are harder and my Jimmy's got the sack, I went down to Vickers, they were glad to have me back. But I'm a third-class citizen, my wages tell me that, and I'm a first-class engineer. The boss, he says, we pay you as a lady. You only got the job 'cause I can't afford a man. With you, I keep the profits high as maybe. You're just a cheaper pair of hands. You got one fault, and you're a woman. You're not worth equal pay. A bitch or a tart, you're nothing but hard. Shallow and vain, you got no brain. You even go down a drain like a lady today. I listen to me mother and I join a typing pool. I listen to me lover and I put him through his school. But if I listen to the boss, I'm just a bloody fool and an underpaid engineer. I've been a sucker ever since I was a baby, as a daughter, as a wife, as a mother and a dear. But I'll fight them as a woman, not a lady. Fight them as an engineer. Se vi ricordate, all'inizio della trasmissione vi parlavo di Sarah Hogan Gunning, che aveva una sorella chiamata poi Hunt Molly Jackson. In realtà si chiamava Molly Gunning, ma vabbè. Questa Hunt Molly Jackson, insieme a Sarah Hogan Gunning, scrisse diverse canzoni e insomma diventò una famosissima donna delle lotte, sempre delle miniere. Oggi siamo molto in miniera, devo dire. In particolare si parla in questi brani che loro scrivevano degli scioperi di minatori del Kentucky, nella contea del Kentucky, e del 1931. E in un'intervista che Hunt Molly Jackson rilascia proprio in quel periodo, poco dopo la fine dello sciopero, di uno dei tanti scioperi di minatori, dice più o meno questa cosa qua. Come si chiama? Hunt Molly Jackson. Che lavoro fa? L'infermiera. L'infermiera diplomata? Sì. Può raccontarci qualcosa riguardo le condizioni di vita della gente in questa valle? In questo paese le persone sono private di tutto ciò che è un vero e proprio nutrimento. Questa è la verità. Anche i bambini perdono la vita e ne seppelliamo dai 4 ai 7 a settimana nel periodo torrido. Per la mancanza di cibo? Sì. Oltre al colera, fame, influenza, problemi allo stomaco dovuti alla denutrizione. Il loro nutrimento è molto sbagliato, cose come fagioli e cibi fritti secchi sono abbastanza difficili da digerire, è impossibile per lo stomaco di un bambino piccolo digerirli, gli organi digestivi non sono abbastanza forti per digerire questo tipo di cibo. Ed è l'unico cibo che hanno quando ce l'hanno? hanno soltanto fagioli. I loro genitori non hanno lavorato quest'estate perché appunto c'era lo sciopero. Le famiglie dipendevano dalla Croce Rossa. La Croce Rossa gli dava un po' di fagioli e mais. Ma gli davano del cibo adatto ai bambini, tipo il latte? Continua l'intervistatore. No, niente latte. C'erano molte famiglie che dipendevano dalla Croce Rossa? Credo di sì, io no, giustamente. E gli bastava quello che gli davano? No, era poca roba. In cosa consisteva? Solo fagioli e patate. E li davano a tutti quelli che li chiedevano? No, la Croce Rossa non li dava a tutti. Ho sempre pensato che fossero egoisti, non avevano cuore. Li davano ai membri del Sindacato Nazionale dei Minatori? No, smettevano di darglieli quando sapevano che uno apparteneva al sindacato. E cosa dicevano? La Croce Rossa è contraria a un uomo che vuole migliorare le proprie condizioni. Il cibo è per i lavoratori e siccome loro vogliono che la miniera vada avanti, non danno niente a nessuno a meno che non torni a lavorare. E poi va avanti così questa intervista con storie che parlano di morti per fame, cibo dato ai cani piuttosto che ai minatori in sciopero, cure mediche negate, spese dei funerali dei figli detratti dalla paga. E in tutto questo Aunt Molly Jackson continua ostinatamente a cantare «Sono una donna del sindacato, iscrivetevi al sindacato, è la cosa più bella che mi è mai capitato di fare». E «I'm a Union Woman», appunto, di Aunt Molly Jackson. I'm so glad that you have come to see me, and I want you now to take down these true stories and have them probably when I'm laid to rest, for this reason, that it is my desire for younger people and younger generations to know how that I was interested in the little children having something to eat. I am a union woman, as brave as I can be. I do not like the bosses, and the bosses don't like me. Join the NMU, join the NMU. I was raised in old Kentucky, and Kentucky born and bred. And when I joined the Union, they called me a Russian Red. Join the NMU, join the NMU. When my husband asked the boss for a job, these are the words he said. Bill Jackson, I can't work you, sir, your wife's a Russian Red. Join the NMU, join the NMU. Well, this is the worst time on earth that I have ever saw, to get shot down by gun thugs and framed up by the law. Join the NMU, join the NMU. But we are many thousand strong, and I am glad to say we are getting stronger and stronger every day. Join the NMU, join the NMU. If you want to join a union as strong as one can be, join the dear old NMU and come along with me. Join the NMU, join the NMU. The bosses ride fine horses while we walk in the mud. Their banner is a dollar sign while ours is striped with blood. Join the NMU, join the NMU. Join the NMU, join the NMU. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! One, two, three, four! Bondage! probabilmente vi ho fatto saltare sulla sedia con questo pezzo, ma ce n'era bisogno e comunque c'è sempre bisogno delle X-Ray Specs, secondo me. E questo pezzo in particolare si intitolava Oh Bondage Up Yours, come si intuiva dal ritornello ripetuto all'infinito. L'album è Jump Free Adolescence del 1978 e anche se si ammicca per tutto il tempo al bondage e al sadomasochismo, il pezzo è un invito alle donne che si sveglino e si liberino dalle catene. Proseguiamo con altri due pezzi, ma prima di ciò vi riassumo velocemente i prossimi appuntamenti dei sotterranei fiorentini, almeno quelli che mi sono pervenuti e che riesco a interpretare nella calligrafia scritta sulla nostra agenda. In particolare, allora, sabato 11 marzo al K100, serata folk con live La Tresca, al Next Emerson Milonga del Tango Sognato. Invece, e attenzione, rullo di tamburi, appuntamento importante, domenica, ecco, magari se lo dico bene è giusto, è meglio, domenica 12 marzo un appuntamento del Wombat, perché alla Polveriera, durante dopo il solito mensile mercato contadino e dell'artigianato, ci sarà tutta una serie di iniziative in cui si infila anche il Wombat, ovvero ci sarà una performance teatrale lungo il corpo a cura del Teatro Anatomico, un aperitivo, poi a seguire un 43 original EDM drum and bass house techno DJ set, ma nel pomeriggio dalle 4:30 in poi ci sarà la premiazione del logo del contest per il logo del Wombat Radio e una diretta collettiva, andrà in onda una puntata speciale della Fuga del Gatto, allargata un po' a tutti i DJ e le DJ della vostra radio preferita, e quindi insomma non parleremo di banale musica classica come facciamo la domenica pomeriggio io e Virginia, ma allargheremo un po' a tutte le altre trasmissioni e faremo un ibrido strano e insomma una diretta proprio dalla Polveriera per questa occasione speciale. Quindi ascoltateci e se non avete la radio in casa, precipitatevi alla Polveriera ad ascoltarci in diretta e insomma comunque a usufruire delle altre innumerevoli cose che ci sono in quella giornata. Detto ciò, i prossimi due pezzi, che sono quasi gli ultimi, insomma non ce n'è più tantissimi, sono uno Automation Song di Phil Hawks dall'album All the News That Fits to Sing del 1964, Phil Hawks, che abbiamo già avuto occasione di sentire in questa trasmissione in una delle prime puntate, e che è una canzone in onore dei cari vecchi luddisti, si potrebbe dire così. E poi a seguire sentiremo Woody Guthrie con Union Burying Ground, che è dall'album Struggle del 1941, che è un pezzo molto tristone, scritto per commemorare tutti quelli che sono morti sul lavoro all'inizio del XX secolo. Ma iniziamo con Automation Song di Phil Hawks. Oh, I lay down your railroads every mile of track, with the muscles on my arm and the sweat upon my back. And now the trains are rolling, they roll to every shore. You tell me that my job is through, there ain't no work no more. Oh, I lay down your highways all across the land, with the ringing of the steel and the power of my hand. And now the roads are there like ribbons in the sky. You tell me that my job is through, but still I wonder why. For the wages were low and the hours were long, and the labor was all I could bear. Now you've got got new machines for to take my place. Can you tell me it's not mine to share? Though I lay down your factories and lay down your fields, with my feet on the ground and my back to your wheels. And now the smoke is rising, the steel is all aglow. I'm walking down a jobless road, and where am I to go? For the wages were low and the hours were long, and the labor was all I could bear. Now you've got new machines for to take my place, and you tell me it's not mine to share. Though I lay down your factories and lay down your fields, with my feet on the ground and my back to your wheel. And now the smoke is rising, the steel is all aglow. I'm walking down a jobless road, and where am I to go? Tell me, where am I to go? I see there a lowering, a right new coffin. I see there letting down a right new coffin, way over in that Union burying ground. And the new dirt's a-falling on a right new coffin. The new dirt's a-falling on a right new coffin, way over in that Union burying ground. Oh, tell me, who's that they're letting down, down? Tell me, who's that they're letting down, down? Way over in that Union burying ground. Another union organizer, another union organizer, way over in that Union burying ground. A union brother and a union sister, a union brother and a union sister, way over in that Union burying ground. A Union father and a Union mother, and a Union father and a Union mother, way over in that Union burying ground. Well, I'm gonna sleep in a Union coffin. I'm gonna sleep in a Union coffin, way over in that Union burying ground. Every new grave brings a thousand new ones. Every new grave brings a thousand members, way over in that Union burying ground. Every new grave brings a thousand brothers, and every new grave brings a thousand sisters to the Union in that Union burying ground. Dopo Woody Guthrie con Union Burying Ground del 1941, ritorniamo un pochino indietro, sempre nel 1931, anno diciamo piuttosto importante per le lotte sindacali americane, e parliamo di un altro personaggio molto importante dell'epoca, che era Florence Rees. Florence Rees era la moglie di Sam Rees, un sindacalista della United Mine Workers nella contea di Harlan, sempre nel Kentucky, quindi sempre la stessa area di cui parlavamo anche prima. Nel 1931 i minatori iniziano un violento e duro sciopero contro i padroni della miniera. Un giorno lo sceriffo e il suo vice assunti dalla compagnia padrona della miniera, irrompono illegalmente in casa della famiglia Rees per intimidire Sam, il marito. Siccome però Sam era stato avvertito in tempo, non si era fatto trovare, decidono di prendersela con Florence e i suoi figli, terrorizzandoli. Quando gli uomini se ne vanno, Florence rimane da sola e scrive questa canzone sul retro di un calendario che aveva in cucina. Ed evidentemente rimase nel cuore di un sacco di gente, perché questo pezzo è stato rifatto da chiunque. Se ne trovano versioni di tutti i generi, dal punk al blues all'hip hop. Quella che ho scelto io è dei Dropkick Murphys, ma prima sentirete un piccolo, brevissimo estratto dell'originale con la voce di una ormai vecchietta, Florence Rees, in persona. E il pezzo è Which Side Are You On? Come all you poor workers, good news to you I'll tell, how the good old union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? We're starting our good battle, we know we're sure to win, because we've got the gun, thugs are looking very thin. Which side are you on? Which side are you on? Scab, or will you be a man? Questi appunto erano i Dropkick Murphys, Which Side Are You On? Da che parte stai tu? E il Wombat da che parte sta lo sa molto bene, e voi per saperlo e per leggere cosa pensa dovete andare sui social e i vari luoghi virtuali dove il Wombat si esprime. Il sito wombat.noblogs.org, punto di riferimento il più importante direi per sapere tutto quello che ruota intorno alla radio. Twitter, twitter.com/radiowombatfi, pagina Facebook, se proprio lo ci tenete, facebook.com/radio-wombat-Firenze, e la casella di posta wombat@insiberia.net. E siamo giunti quasi alla fine di questa puntata scioperata di Slick Chick su Radio Wombat, puntata dell'8 marzo, e ci dobbiamo lasciare con un ultimo pezzo che è di Billy Bragg. In particolare, quello che vi faccio sentire è ovviamente Never Cross a Picket Line. L'album è The International, o anzi, in realtà forse la francese The International, non lo so, del 1990. E Billy Bragg ci porta tra i portuali di tutta l'America e del Canada e ci ricorda che mai, mai, mai si deve attraversare la linea di un picchetto. E con questo consiglio, anzi direi assoluto divieto imposto bene in testa, ci lasciamo e ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre intorno alle 9. Prometto che prossimo mercoledì sarò più puntuale. E sempre dai microfoni di Wombat Radio, Radio Wombat come preferite. Ciao ciao! 500 men sacked for refusing to ever cross a picket line. Voices down the IG's warning, never cross a picket line. You must never cross a picket line. Cross a picket line with their wives and children, they stand together. Never cross a picket line. You must never cross a picket line. Look away, look away, look away out west to San Francisco. Look away, look away, look away down south to Sydney Harbour. When the talkers have all line. Technically this is an illegal strike, never cross a picket line. But technically workers have no rights, never cross a picket line. You must never cross a picket line. Never cross a picket line, where workers' rights are enshrined and written. Never cross a picket line. You must never cross a picket line. Look away, look away, look away out west to San Diego. Look away, look away, look away out east to Barro Saka. Suckers have organized the world's longest picket line. The Tories have come, but there's no improvement. Never cross a picket line. Might of the Labour movement, never cross a picket line. You must never cross a picket line. Look away, look away, look away down south to Auckland City. Look away, look away, look away out west to old Vancouver. With the Tuckers you've organised world's longest picket line. For the Dockers who've realised you must never cross a picket line.